cioè non siamo sicuri che usiamo esclusivamente noi il computer, se qualcuno riesce ad arrivare a questo livello può fare dei danni con una certa facilità e rendere anche il computer non avviabile, fare dei casinetti. E si può mettere la password in maniera furba, cioè criptata, sempre nel file di configurazione si scrive una lunga stringa derivata dalla password utilizzando un comando md5sum. È una cosa che si usa anche quando, che andrebbe usata anche quando ci si scarica un'immagine di un CD per controllare lì. In quel caso, non per ragioni di sicurezza, quanto piuttosto per controllare che l'ISO, l'immagine che abbiamo scaricato sia quella, sia giusta e non ci siano stati degli errori di trasmissione, insomma. In questo caso invece noi eseguiamo quell'algoritmo, ci facciamo dare questa lunga stringa, la copiamo dentro il file di configurazione di Grub e quando si avvia ci chiede una password e noi la scriviamo nella maniera semplice. Ecco, sempre tenendo come riferimento l'installazione di Ubuntu, durante il partizionamento, quando lui lo fa proprio, io ho notato che fa decisamente svelto, ci mette poco tempo a ridimensionare la partizione di Windows. E non so, non ho avuto esperienza in tal senso, se per caso il disco avesse dei settori danneggiati, cosa succede? Non mi è mai successo. Mi è successo di cercare di installare qualcosa in un disco che aveva dei settori danneggiati, ma andando a crearmi prima dell'installazione la partizione dove volevo installare. Quindi so dirvi presso poco cosa succede e dove voglio arrivare, che sarebbe meglio preparare prima la partizione dove si vuole installare Linux, se vogliamo essere sicuri. Poi non guasterebbe anche un backup, potremmo aver usato già da diverso tempo Windows, se partiamo sempre da quella situazione, avere dei file personali, una possibilità è salvare i propri file personali. Se sbagliamo, magari anche noi, e andiamo a cancellare la partizione di Windows, anche se abbiamo salvato i nostri file, è comunque una rottura di scatole, almeno per me. È un divertimento per me installare un Linux, è una seccatura dovermi installare Windows e tutti i driver e dopo metterci i dati dentro, insomma. E allora, cosa si potrebbe fare? Un backup prima, anche creando un'immagine della partizione di Windows, usando qualcosa tipo Norton Ghost, il programma che crea immagini, e c'è qualcosa, c'è un bel progetto che permette di fare questo, si chiama Clonezilla e fa diverse cose. Tra l'altro esiste una live, un CD che si avvia, parte, che eventualmente possiamo anche vedere, e ci permette di creare un'immagine pari pari di tutta una partizione. Non solo, se come in questo caso qua ho la prima GNewSense distribuzione, ho una Debian Fedora, CrunchBang, OpenGeo, ho provato a creare l'immagine di tutto un disco, cioè in pratica non l'ho fatto sul portatile, questo su un desktop, gli ho affiancato internamente un disco più grosso e ho fatto un'immagine di tutte le partizioni per poi ripartire col disco nuovo più grosso, nuovo. Ecco, quindi duplice utilizzo possibilità, insomma, quella di crearsi un'immagine eventualmente anche in un disco esterno di una partizione, oppure quello che si vuole, 2, 3, tutto il disco al limite. E cosa interessante, lo fa in maniera intelligente, non legge stupidamente dato per dato tutta la partizione, che si tratti di una partizione Windows, NTFS o XT 2, 3, quello che si vuole, si accorge dei dati che ci sono dentro e copia solo quelli, con il vantaggio che se non sono pienissime fa decisamente svelto. Posso farti una domanda su Florentil? Sì. Io lo uso, mi trovo bene, però mi è capitato che un disco stava per rompersi, avevo fatto tutte le immagini, me l'hanno sostituito con uno più grande. In quel caso lì non sono riuscita ad usare le immagini che avevo salvato su un hard disk esterno. È perché sono incapace io o è... Nel senso, è possibile prendere una partizione, l'immagine di una partizione da un disco esterno, da un disco che ne so, da 120, e rimetterla su un disco da 160? Forse dovevo prima creare la partizione con l'esatto numero di... No, le due partizioni non devono necessariamente avere le stesse dimensioni, sì. È questo. Cioè, non è, per Clonezilla non è un problema se la partizione di partenza è più piccola e quella dove si va a schiaffare l'immagine è più grande. In genere si sa come fare le cose. Allora, vabbè, era e per il ripristino? Sì, di questo parlavamo appunto. Quando del ripristino. Una volta salvata l'immagine, il ripristino avviene dalla partizione grande alla partizione piccola? No. Se ho salvato una partizione in una certa dimensione, un disco più grande, una partizione più grande, se l'ho salvata in una più grande, sì. Ma io salvo un'immagine, non salvo le partizioni. Sì, beh, d'accordo. Beh, quando si salva un'immagine la si crea delle stesse dimensioni, la si fa uguale, poi la si può mettere di nuovo nello stesso spazio o in uno spazio più grande. Lui non ha problemi a fare questo, insomma. Può esserci qualche problema a fare il contrario, può non farcela a farci entrare in una partizione più piccola una che abbiamo salvato adesso. Bene, allora, ritornando a quando parte il computer, prende possesso di tutto Grub, che è scritto nel master boot record, cioè all'inizio dell'hard disk. Poi abbiamo visto che possiamo avere più di una partizione. All'inizio di ogni partizione c'è una manciata di byte che è già sufficiente a far partire un altro grub. Forse non è semplicissima la cosa, se vi mostro. Allora, questo è il grub nel master boot record, cioè nel primo settore, quello che il BIOS lancia all'avvio. Grub poi può passare la palla ad un altro GRUB di una qualsiasi partizione, grazie appunto a questa manciata di byte che a lui sono sufficienti. Non voglio analizzare come GRUB fa questa cosa, insomma. In genere non ci sono nei computer recenti non ci sono problemi a fare queste cose. Soprattutto in passato c'era un limite dei BIOS che poteva rendere difficile fare questo genere di cose, avere più GRUB così, perché GRUB ha bisogno di andare lontano dall'inizio del disco e i byte per specificare la distanza sono proprio pochini. Mi è successo che un GRUB, semplicemente installando una distribuzione Linux su un vecchio Pentium 3, GRUB non riusciva a far partire il sistema operativo. Andando a guardare nel BIOS e specificando l'opzione LBA, cioè andando a dirgli ho un disco bello grosso, sono riuscito a risolvere il problema. Perché quel Pentium 3 era nato quando c'erano dischi da 13 giga, così mi sono inventato di buttargli dentro uno da 80, che per lui era una cosa incomprensibile. Ecco, mettendo mano un attimo nel BIOS a volte si riesce a risolvere. Questo è il motivo per cui si tendeva a forzare a creare una partizione apposta all'inizio del disco. Oggigiorno non ce n'è più così gran bisogno. Ecco, alla fine dell'installazione di un sistema operativo, di un Linux qualsiasi, che sia Ubuntu, una Debian, viene lanciato il programma GRUB per installarsi nel Master Boot Record e controlla, va a dare un'occhiata di quante partizioni ci sono e le inserisce un po' tutte. In questo caso ho installato una Debian che si è accorta che avevo le altre e le ha inserite. Volendo posso qua cambiare idea, anche se la cosa non ha molto senso. Non volevo far partire Debian e da qua volessi far partire la Fedora, si può fare. Crea un casino in testa e non ha così tanto... Scusa, ma sì. Questo riesce a tornare al GRUB precedente o no? Ormai è perso? Quindi... No, allora... in GRUB, per fare partire un altro sistema operativo, ci sono fondamentalmente due modi. Quello di specificare la partizione di dove è il sistema operativo e specificare per esteso il kernel, come fa qua. Ho installato qua la Debian, è andato a guardarsi tutte le partizioni e da bravo ha visto, è andato a guardare anche dentro le partizioni, i kernel di tutte le distribuzioni. E quindi sì, si può da qua far partire tutto quello che è elencato qua. Se tu lo metti la voce sul menu list di questo GRUB qua, però... Giusto? Sì, questo l'ha fatto lui. Dicevo, ci sono due modi. O si specifica la partizione e il kernel per esteso, oppure a GRUB gli si dice semplicemente aggiungiamo un anello alla catena, di là c'è un altro GRUB e se ne occupa lui. Ed era il caso precedente. Allora, non sarebbe male dare un'occhiata al file di configurazione di GRUB. fai con chain loader, una roba sì, esatto, esatto, esatto, si specifica la partizione e gli si dice chain loader ed è quello che faccio qua. Fai vedere come la uso. Ecco, ecco, mi è venuta una buona idea, nel senso che dunque qua è stata installata questa. Ho perso di nuovo la risoluzione. Orco can. Metatron. Sì. Però queste istanze qua me le sono andate a mettere io con il aggiungendo lo chain loader. Adesso appena ecco, benissimo. A questo punto con edit posso vedere questa istanza che riguarda la Debian e andare a vedere quello che peraltro c'è scritto nel file di configurazione di GRUB, e cioè questa riga A si riferisce a un altro GRUB che è in questa partizione qua, e adesso devo spiegarvi come GRUB gestisce, chiama le partizioni, e andandogli dire chain loader più uno, aggiungi un anello alla catena, passo la palla a quel group là e lui